Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È uno degli scrittori italiani più amati dal pubblico. I suoi libri, appena usciti, entrano subito nella classifica dei 10 più venduti, così come è accaduto per l'ultimo romanzo, La mamma del sole. Parliamo di Andrea Vitali, il medico di base prestato spesso e volentieri alla scrittura. Anche in questo caso la storia è ambientata nella sua Bellano, piccolo paese sul lago di Como. Anche in questo caso siamo negli anni 30, gli anni del regime fascista che fa da sfondo, come sempre, a storie di gente comune. Come Olive comprese, almeno il cappello, la modista, il segreto di Ortelia, anche La mamma del sole è un romanzo corale in cui tutta la comunità di Bellano è protagonista. C'è la caserma dei carabinieri, con l'appuntato Milagra e il maresciallo Maccadò, la canonica con il sacrestano Bigè, la perpetua Scudiscia, c'è il segretario provinciale del Partito Nazionale Fascista che ha ricevuto dall'alto un ordine. Raccogliere informazioni dettagliate su Velia Berilli, una donna che ha messo al mondo 14 figli. Chiede così aiuto al maresciallo Maccadò, che ha a che fare nel frattempo anche con un altro caso, la scomparsa dall'ospizio di una donna che per molti anni era stata la perpetua del vecchio parroco. Insomma, due donne, due misteri, come ci racconta lo stesso Andrea Vitali. Sono due misteri abbastanza compiuti e molto diversi uno dall'altro. Sono due misteri incarnati da due donne che hanno una vita, una carriera vitale molto molto differente l'una rispetto all'altra, tant'è che una è una donna che non ha mai conosciuto il figlio e le ha fatto credere sia nato morto, l'altra donna invece è una donna che ha messo al mondo ben 14 creature utilizzando uomini diversi, insomma, al bisogno e che sono accomunate però da una passione comune, cioè che è l'amore nei confronti dei figli, sia la prima, Maria Domenici, quella che non ha mai conosciuto il figlio, sia la seconda, Velia Berilli, quella che ne ha messi al mondo ben 14 e che andrà poi a finire per una serie, diciamo, di coincidenze nelle grinfie del segretario del partito locale, che la vorrebbe spedire a Roma per essere ricevuta da Mussolini, perché in quell'anno, che è il 1933, Mussolini si preparava ad accogliere le fattrici italiane, come le chiamavano allora. Cioè, mi dispiace di questo aggettivo un po' veterinario nei confronti del sesso femminile, però il termine era quello, perché le donne allora dovevano mettere al mondo figli da donare alla patria, i quali poi avrebbero dovuto armarsi di baionetta e combinare sfracelli. Una di queste due donne scompare, quindi c'è proprio anche un'indagine. Una di queste due donne scompare, una donna anziana, malata, che per una cosa che credo non sia utile ai fini della lettura rivelare, abbandona l'ospizio dove è ricoverata, proprio spinta dal desiderio di fare luce su questa cosa che le hanno raccontato il giorno in cui ha partorito questo bambino. Scompare e la coincidenza è che scompare insieme a lei e anche scompare, finisce la sua vita, anche un vecchio battello che ormai destinato ad essere distrutto perché non funziona più come si deve. Due misteri, un'indagine, anche Andrea Vitali si è fatto contagiare dalla noir mania? No, assolutamente no, io l'ho sempre detto, io non sono un giallista, tanto meno un noirista, pur essendo un lettore che gradisce molto i gialli e i noir ben fatti, però un po' di mistero, diciamo un po' di segreto credo che ci voglia in tutte le storie per tenere desta l'attenzione di chi scrive e poi dopo di chi andrà a leggere il romanzo. Forse nella Mamma del Sole ecco, il mistero è un pochino più giallo, sì, perché c'è quella scomparsa, dicevo, di questa donna, però non che il segreto, il mistero mancasse anche nelle storie precedenti. Perché questo titolo? Allora, questo titolo io l'ho derivato da una, che tra l'altro è un altro dei piccoli misteri che compaiono all'interno di questa storia, perché viene poi svelato verso la fine del romanzo. Io l'ho preso durante una vacanza in Sardegna, quando ho capito che esisteva, diciamo, questa figura metaforica, la mamma del sole appunto, che veniva utilizzata per spaventare un po' i bambini, per impedir loro di uscire nelle ore più calde, dei mesi più caldi, diciamo, dell'estate sarda. E mi ha colpito questa profonda differenza rispetto, diciamo, al buio, all'uomo nero, al babau, che invece fa parte delle nostre tradizioni del nord. C'era invece questa Mamma del Sole così colorata, così calda, che mi ha, diciamo, impressionato, e che quindi ho fatto trasportare in continente, quindi a Bellano, presso la caserma dei Carabinieri, dal brigadiere Fisio Manno, che è appunto sardo di origine, che già che è comparso in storie precedenti e che ricompare appunto nella Mamma del Sole in un luglio 1933 particolarmente caldo e umido, che gli ricorda appunto le cose che questa sorta di favoletta che una vecchia zia gli raccontava quando lui era bambino. Anche in questo caso un romanzo ambientato negli anni 30 e a Bellano, ormai è un tuo marchio di fabbrica. Beh, direi che Bellano è il marchio di fabbrica, perché questo territorio, cioè questa fetta di lago, questa fetta di terra sono diventati un po' i protagonisti seriali delle mie storie. Per raccontare storie di questo tipo, secondo me è estremamente importante avere una bella geografia sicura all'interno della quale camminare senza il timore di perdersi. E io, cioè, l'unica geografia che conosco con sicurezza è proprio quella, questa Bellano, che poi diventa un po' un territorio della fantasia, perché ho ovvio che storie come questa, ambientate nel 33, sono storie che io non ho potuto vivere direttamente, però ricostruendola un po' con la fantasia, con i racconti altrui, con le immagini, con i documenti, riesco un po' a rivederla, diciamo, e a immedesimarmi, diciamo, in questo e quel personaggio e in quella condizione storica soprattutto. Sappiamo che ovviamente spesso trai spunto per i tuoi personaggi anche dai tuoi concittadini, anche se a grandissime linee, o magari ti fai ispirare per delle storie. In questo caso c'è qualcuno che si potrà riconoscere? No, perché allora io traggo spesso spunto dagli aneddoti che mi vengono raccontati, e poi gli aneddoti rielaborati, trasformati, spostati nel tempo e nello spazio diventano storie. Per quanto riguarda i personaggi, se è vero che mi ispiro, diciamo, ai miei concittadini, è anche vero che li dissezionano, nel senso che prendo di loro la parte che mi interessa, quindi poi faccio una specie di collage per cui viene fuori un personaggio irriconoscibile nella realtà, anche se è vero che poi dopo spesso i miei concittadini partono alla caccia dell'identificazione di questo e di quello. Questo è un vezzo che ormai ho imparato, ma anche a regolare, perché poi non mi è mai successo niente di particolarmente sgradevole nei confronti dell'uno o dell'altra. Abitudini, vizi e virtù di Andrea Vitali, scrittore. Allora, i vizi non li posso dire, ma non perché siano vizi spregevoli, ma perché se un medico viene a dirti che fuma non fa una bella figura, insomma, è già l'ho detto. Virtù bisognerebbe chiedere a qualcun altro, perché insomma mi sembrerebbe di essere troppo vanitoso nel declinare quelle che io credo siano, diciamo, le mie virtù. Le abitudini sono sì un abitudinario, sia nella scrittura sia nel lavoro. Mi piace molto scrivere al mattino, soprattutto quando ho la storia in mano, quando mi sento quasi protagonista della storia stessa, e quindi quando è la storia che comanda te e non sei tu, anche se lo credi, a comandare lei. E poi la lettura che è fondamentale secondo me per mantenere vivo il vocabolario, insomma. La lettura è, diciamo, quella sorta di vitamina che ti insegna continuamente, la scrittura creativa ti insegna nuovi termini, ti insegna un sacco di cose, per cui è un'attività, diciamo, come la scrittura per me è un'attività quotidiana. Cosa leggi in genere? Ma io sto decisamente dalla parte dei narratori italiani, per cui mi piace molto leggere i narratori, diciamo, moderni, contemporanei, ma anche poi ripassarmi i narratori del passato, che sono quelli sui quali mi sono formato in età giovanile, che mi hanno fatto appunto scoprire quanto sia grande e quanto sia godibile la narrativa italiana, per fare, diciamo, dei nomi da Piovene a un sacco di scrittori. Cioè, nell'attualità sono un fan assolutamente di Camilleri, lui sì che è in gamba e bravo a scrivere dei gialli e dei noir e non solo quelli, però ecco, devo dire che prevalentemente prediligo leggere italiano, anche se non mi nego ovviamente delle puntate sugli scrittori stranieri, insomma. E questo era Andrea Vitali, ora in libreria con La Mamma del Sole, pubblicato da Garzanti. Prima di chiudere vi ricordo che trovate il podcast o la versione MP3 di queste e delle altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.